qualcosa di piccolo e di inaspettato si sta muovendo in Parlamento. È un anno che, di fronte alla presentazione di una proposta di legge da parte della Lega in cui si volevano inasprire tutte le pene legate al consumo di sostanze stupefacenti, in quel momento il deputato radicale di Più Europa, Riccardo Magi, ha presentato un testo uguale e contrario nei contenuti. Quindi da un anno che la Commissione Giustizia ha fatto il ciclo di audizioni e tutta la discussione, nonostante l'ostruzionismo della Lega, e ieri, ossia mercoledì pomeriggio, c'è stato il voto a maggioranza in commissione sull'adozione del testo base. Il testo base che prevede la depenalizzazione, quindi la liceità della coltivazione domestica di 4 piante femminili. Sulla onda della sentenza delle sezioni unite penali di Cassazione di circa 2 anni fa, che appunto diceva che non vi era alcuna rilevanza penale sulla piccola coltivazione domestica. Quindi questo testo di legge va in linea con quello che dice la Suprema Corte. È un testo base, c'è la discussione, dobbiamo aspettare gli emendamenti, deve essere approvato in commissione il testo definitivo, passare dall'aula, andare al Senato, rifare lo stesso giro commissione e aula per poi avere la legge. Quindi oggi non è cambiato nulla rispetto a qualche ora fa, però insomma è un segnale importante che una maggioranza anche sulla cannabis più libertaria, ecco, rispetto a quello che si poteva immaginare, esiste. Per completezza dell'informazione, quel testo contiene una depenalizzazione per la coltivazione domestica, appunto, di 4 piantine, come hai sottolineato tu, ma un inasprimento per, ad esempio, il traffico e i reati connessi al mondo della criminalità organizzata. Esatto, questo è il contrappasso, diciamo, della legge per tutte le attività definite, almeno teoricamente, come criminali, ossia lo spaccio, il traffico internazionale, eccetera, c'è stato un aumento delle pene. Questo è anche dovuto al fatto che si è cercato di creare un testo unitario sui 4 che erano presentati, tra cui appunto quello della Lega che citavo prima, e quindi si è dato il contentino. Non è servito a nulla, perché comunque la Lega ha votato contro, come tutto il centrodestra, fuorché un deputato di Forza Italia con origini radicali, che è Elio Vito, che ha votato a favore, e Italia Viva si è astenuta. Teniamo la mente per il futuro. Quindi sì, inasprimento delle pene per i crimini di traffico internazionale, eccetera, un abbassamento invece delle pene per quanto riguarda i reati di lieve entità, e poi appunto la depenalizzazione fino a 4 piante di marijuana da coltivarsi in casa. In attesa dell'iter parlamentare, sperando che poi possa sfociare in una legge vera e propria, vi attrezzate in particolare il sabato prossimo allo stand dei Giovani Democratici alla Festa dell'Unità, tu terrai una lezione proprio sulla coltivazione della cannabis. È l'11 alle 7 di sera, i Giovani Democratici mi hanno invitato per organizzare un corso di coltivazione di marijuana. Già in passato organizzai o partecipai a corsi del genere, un tour venne fatto organizzato dai radicali 3 anni fa nelle principali spiagge di spaccio, e lì si insegnava a coltivare, perché l'autoproduzione è un modo per staccarsi dalla dipendenza dalla criminalità organizzata nella consegna e distribuzione delle sostanze oggi illecite. Prima ancora, sempre con i Giovani Democratici a Milano, sull'iniziativa per la legalizzazione della cannabis terapeutica, e appunto sabato 11 alle 7 di sera corso sulla coltivazione di marijuana. Ricordo e sottolineo come i primi 50 alunni avranno a fine lezione, durerà circa una quarantina di minuti, un semino, un vasetto e la terra, per cui si farà poi la prova pratica, che è la messa a dimora di 50 semini che poi i primi 50 alunni si possono portare a casa. Quindi avranno la loro piantina di marijuana da balcone se hanno seguito le lezioni.